Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Oggi anche noi partiamo dall'emergenza maltempo che ha colpito il centro Italia, un'emergenza che raccontiamo focalizzando l'attenzione sulle ripercussioni nell'autotrasporto. La situazione resta critica in varie province, tutto questo significa approvvigionamenti in ritardo, mezzi e carichi fermi, conseguenze pesanti sull'intera catena logistica, in particolare per certe filiere, pensiamo per esempio ai prodotti deperibili. Per fare il punto della situazione abbiamo in linea Roberto Galanti, coordinatore nazionale di FIAP, la Federazione Autotrasportatori Professionali. Buongiorno Galanti. Buongiorno. Ecco, ci tracci un quadro delle conseguenze di questa emergenza declinata sul mondo dell'autotrasporto. Diciamo che il nostro settore è stato, come il resto anche delle altre attività, molto penalizzato. Prima il sisma ha bloccato quelli che erano le circolazioni dei mezzi, perché le attività erano ferme, perché c'era l'impraticabilità delle strade, e poi adesso la neve, ovviamente, in questa situazione di eccezionalità ha messo la ciliegina sulla torta, nel senso che con 2 metri di neve lungo le strade statali è praticamente quasi impossibile circolare. Non potendo circolare significa che comunque a monte c'è scarsa produzione. E peraltro non c'è nemmeno la possibilità, anche perché comincia, ma qui nelle nostre zone, cioè quelle interessate dal sisma prima e dalla neve adesso, le attività sono ferme proprio per forza di cose, per cui un'attività di autotrasporto è penalizzata oltre quello che già lo è. Da più parti è finito sotto accusa il piano neve, cioè il protocollo che viene rinnovato ogni anno con la firma di AISCAT, ANAS e Polizia Stradale, protocollo che prevede una serie di interventi da attuarsi per regolare la circolazione dei mezzi pesanti in caso appunto di nevicate. Tra le misure previste, lo ricordo, l'indicazione dei percorsi alternativi laddove è possibile, delle aree di sosta verso le quali convogliare i mezzi in caso di blocco. Galanti, questo piano non ha funzionato, insomma. Allora, io direi, vorrei definire senza essere frainteso, che non è deludente, allarmante per quello che è avvenuto, inadeguato e forse anche inconsistente. La gestione dell'emergenza l'ho ritenuta deludente, perché si è ridotta nella prima fase alle previsioni meteo e ovviamente si è pensato bene di trovare la strada più breve, cioè quella di bloccare i mezzi pesanti. Allarmante perché ovviamente bloccando i mezzi c'è anche un blocco commerciale nel paese. Volenti o nolenti, dobbiamo sapere, perché tutti lo sanno, che l'Italia delle merci, nonostante le relazioni, piani, contropiani, viaggiano su gomma. E quindi era necessario forse predisporre qualcosa che permettesse ai mezzi pesanti di circolare. Ovviamente parlo nella normalità, perché se faccio riferimento al primo giorno, adesso non ricordo esattamente, ma il primo giorno che era di previsioni, da Civitanova a scendere giù lungo la costa adriatica, c'erano file di mezzi pesanti in colonna, e se uno non avesse saputo che era gennaio e avesse aperto gli occhi, sicuramente avrebbe immaginato di trovarsi in una giornata uggiosa di primavera, perché i lati mancavano le margherite, insomma, tanto per capirci. La scusa che ho sentito è che ci sarebbero in giro degli irresponsabili, e cioè quelli che si mettono in viaggio, e ci sono, senza catene, gomme da neve, insomma le attrezzature necessarie. Quindi, anziché trovare la soluzione per questi responsabili, si è scelta la strada più breve, cioè quella di bloccare anche chi, nel rispetto delle norme, aveva la possibilità di poter arrivare. Ovviamente sto parlando di situazioni di quasi normalità, perché sul metro e mezzo di neve, 2 metri di neve, qui c'è poco da discutere sul piano neve o non piano neve. Roberto Galanti, coordinatore nazionale di FIAP, la Federazione Autotrasportatori Professionali, grazie e buona giornata. Grazie, buona giornata e buon ascolto ai nostri amici. È un'emergenza. Nell'emergenza è quella che ha riguardato nei giorni scorsi la raccolta e il trasporto di latte nella zona al confine tra Puglia e Basilicata. Al nostro microfono Giampiero Calzolari di Alleanza Cooperative. Le do un dato per farmi capire: noi abbiamo avuto il blocco il venerdì, siamo riusciti a raggiungere le ultime aziende il lunedì della settimana successiva, quindi 10 giorni di impraticabilità. C'è stato una comprensibile difficoltà dell'impatto e poi una difficoltà invece nella gestione del fenomeno una volta che si è verificato, questo è il dubbio, perché 10 giorni sono veramente tanti. Insomma, un'emergenza io credo che debba durare 24-48 ore, poi bisogna che il sistema reagisca, è chiaro che se non ci sono i mezzi in quell'area lì, bisogna che la protezione civile, piuttosto che altri soggetti, facciano fronte con mezzi che arrivano da altri territori, insomma. L'idea che nevica al nord e sul c'è il sole non funziona più, insomma. E sentiamo ora quali sono state le conseguenze del blocco della circolazione che ha impedito così la raccolta e il trasporto del latte. I nostri allevatori hanno buttato via il latte di quella settimana lì, i danni poi saranno quantificati, però insomma. E poi gli animali hanno anche un dato di salubrità, insomma. Questi stress, non essere munti, non essere accuditi perché mancava l'energia elettrica, insomma, sicuramente avranno effetti anche nel tempo di mancate produzioni, di stress e quindi anche sul benessere degli animali e sulla produzione inciderà anche nelle prossime settimane. Voltiamo pagina e torniamo alle distorsioni che inquinano il settore dell'autotrasporto in Europa per effetto della concorrenza ritenuta sleale da parte delle aziende dei paesi dell'est. È un tema centrale per il settore, di fronte al quale urgono soluzioni, in particolare da parte dell'Unione Europea, affinché si realizzino quelle condizioni necessarie a riequilibrare il mercato, consentendo a tutti di giocare ad armi pari. In questi anni le nostre strade sono state invase dai tir con targa estera, ce ne accorgiamo tutte le volte che imbocchiamo un'autostrada. Ci sono paesi come la Polonia che sono diventati leader del settore e altri della vecchia Europa, a partire dall'Italia, che hanno visto ridurre sensibilmente la propria quota. Collegati a questa repentina rivoluzione del mercato ci sono i fenomeni della delocalizzazione delle aziende, del dumping sociale e del cabotaggio abusivo. Nei giorni scorsi a Roma, Anita ha presentato uno studio realizzato in Francia da CNR, che è il Comité National Routier. Questo studio ha comparato le condizioni di lavoro e le retribuzioni tra tutti i paesi dell'Unione e attraverso l'eloquenza dei numeri ha cristallizzato le profonde differenze che caratterizzano i costi operativi tra i paesi dell'Europa dell'Est da una parte e quelli della vecchia Europa dall'altra. Alexis Giray è il direttore del Comité National Routier. Lo abbiamo intervistato. Un paese come la Polonia rappresenta attualmente il 50% di tutto il trasporto merci su strada internazionale in Europa, su 28 paesi membri. Consideri che i quattro stati leader, tutti insieme cumulativamente, rappresentano il 50%. Quindi abbiamo assistito ad una ridistribuzione fortissima del mercato nell'arco di pochi anni a favore di alcuni paesi, essenzialmente paesi dell'est. Notamente dei paesi dell'est. Par exemple, des pays comme l'Italie. L'Italia rappresenta il 13% in termini di attività internazionale, è dodicesima in Europa, laddove invece la Lituania, un paese più piccolo e che quindi ha un volume di attività inferiore, tuttavia svolge più attività internazionale dell'Italia. L'attività internazionale della Lituania nel settore dei trasporti ammonta al 90%. La struttura del salario, il tipo di salario è profondamente diverso e determina quindi queste grandi differenze. In effetti, la parte dello stipendio sottoposta a contributi in Italia ammonta al 72%, laddove in Polonia è del 39%. Tutto il resto è costituito da indennità di trasferta, che quindi non sono soggette ai contributi sociali. In Bulgaria questa percentuale addirittura è del 75%, il che vuol dire che tre quarti dello stipendio non è soggetto a contributi sociali. Con hashtag autotrasporti oggi mi fermo qui, noi ci risentiamo lunedì 13.45 come sempre in coda ad effetto giorno, grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.